Stella splendente, madre di Dio, sei luce che guida i miei passi. Conduci il mio cuore ad acque tranquille, sostegno e riparo tu sei. Con dolci parole di madre che ama, sussurri nel cuore che è l'unica strada, è il pane e il vino che tuo figlio ha donato, e amare ogni uomo come lui ci ha insegnato. Ave Maria tra gli angeli in coro, sei pioggia di grazia dal cielo. Nel cuore io sogno di viverti accanto, danzare e cantare con te. Ave Maria, immagine viva, che preghi per ogni creatura. Tu vegli sul mondo con mite tepore, donando del Padre l'amore. Madre, io so che mi ami malgrado, io non sia degno di te, ma so che l'amore pareggia ogni cosa, ti tendo le mani in attesa. Con dolci parole di madre che ama, sussurri nel cuore che l'unica strada è quella tracciata dal nostro Signore, gridare al mondo che Dio è solo amore. Ave Maria tra gli angeli in coro, sei pioggia di grazia dal cielo. Nel cuore io sogno di viverti accanto, danzare e cantare con te. Ave Maria, immagine viva, che preghi per ogni creatura. Vegli sul mondo con mite tepore, donando del Padre l'amore. Ave Maria tra gli angeli in coro, sei pioggia di grazia dal cielo. Nel cuore io sogno di viverti accanto, danzare e cantare con te. Ave Maria, immagine viva, che preghi per ogni creatura. Tu vegli sul mondo con vite tepore, donando del Padre l'amore.